Terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. La storia della tartaruga d'Egitto. Oh, non puoi immaginarti come sono lieto di rivederti, vecchia mia, disse la duchessa prendendo Alice a braccetto e mettendosi a passeggiare insieme a lei. Alice fu molto contenta di trovarla così di buon umore e pensò che forse era stato soltanto il pepe a imbestialirla a quel modo quando si erano incontrate nella cucina. Quando io sarò una duchessa, si disse, ma con tono non molto fiducioso, terrò sempre il pepe alla larga dalla mia cucina. La minestra può farne benissimo a meno, e poi forse è proprio il pepe che rende la gente così infiammabile. Continuò molto soddisfatta di aver enunciato una specie di regola nuova. E l'aceto la rende acida, e la camomilla la rende amara, e le caramelle d'orzo e i dolci fanno diventare mansueti i bambini. Oh, se soltanto gli adulti le sapessero queste cose, non sarebbero tanto di manica stretta coi dolci, non ho ragione. Nel frattempo si era completamente dimenticata della duchessa ed ebbe un lieve soprassalto quando sentì la sua voce che in un orecchio le diceva: «È perché sei occupata a pensare che ti dimentichi di conversare, mia cara, e la morale è...» «Adesso come adesso mi sfugge, ma fra un po' mi verrà in mente!» «Forse non ce n'è una!» azzardò Alice. «Via, via, sventatella!» disse la duchessa. «Ogni cosa ha la sua morale, basta trovarla!» E parlando si stringeva forte contro il fianco di Alice. Ad Alice non andava che le stesse così sulle coste. Primo, perché la duchessa era molto brutta, e secondo perché il suo mento le arrivava giusto all'altezza della spalla e si trattava di un mento scomodissimamente aguzzo. Comunque non voleva essere sgarbata e lo sopportò meglio che poteva. «Sembra che adesso la partita proceda un po' meglio», disse Alice. «Già», disse la duchessa, «e la morale è... Oh, l'amour, l'amour! È l'amore che fa girare il mondo!» «Qualcuno ha detto», bisbigliò Alice, «che è chi bada agli affari suoi che fa girare il mondo». «Ah, come no? È più o meno lo stesso», disse la duchessa, affondando ancor più il suo mentuzzo appuntito nella spalla di Alice e aggiungendo: «e la morale è... chi semina suoni raccoglie senso». «Che pallino trovare la morale di tutto», pensò Alice. «Scommetto che ti stai chiedendo perché non ti metto un braccio attorno alla vita», disse la duchessa dopo una pausa. «È che temo un po' la reazione del tuo fenicottero. Che dici, mi avventuro?» «Pizzica», rispose Alice prudente, per niente entusiasta di subire quell'esperimento. «Verissimo», disse la duchessa. «Fenicotteri e mostarda pizzicano entrambi, e la morale è... uccelli della stessa covata fan sempre rimpatriata». «Solo che la mostarda non è un uccello», fece notare Alice. «Esatto, come al solito», disse la duchessa. «Hai il dono della chiarezza, tu». «È un minerale, credo», disse Alice. «Ma certo», disse la duchessa, che sembrava disposta a mostrarsi d'accordo su qualsiasi affermazione di Alice. «C'è una ricca miniera di mostarda nei paraggi, e la morale è: più ce n'è per me, meno cene per te». «Oh, ci sono!» esclamò Alice, che non aveva fatto caso a quest'ultima osservazione. «È un vegetale, non è all'aria, ma lo è». «Sono assolutamente d'accordo», disse la duchessa, «e la morale è: l'apparenza dona. O, se preferisci in parole povere, non pensare neppure per un istante di non essere diversa da ciò che può sembrare agli altri che tu sia stata o potresti essere stata, non è diverso da ciò che saresti sembrata loro differente da come sei». «Forse lo capirei meglio», disse Alice molto educatamente, «con un disegnino. Ho paura di non riuscire a orientarmi se me lo dice così». «Oh, questo è niente in confronto a ciò che potrei dire se volessi», rispose la duchessa tutta compiaciuta. «Oh, la prego, non vale la pena di spendere una parola di più per spiegarmelo», disse Alice. «Oh, nessuna pena», disse la duchessa, «ti regalo tutto quello che ho detto finora». «Capirai che regalo», pensò Alice. Per fortuna che ai compleanni la gente non fa regali simili, ma non si arrischiò a dirlo ad alta voce. I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? «Pensi ancora?» chiese la duchessa con un'ennesima trivellatina di mento. «Avrò ben diritto di pensare», ribatté Alice, che cominciava a innervosirsi. «Né più né meno il diritto», disse la duchessa, «che i porci hanno di volare, e la morà...» Ma a questo punto, con grande stupore di Alice, la voce della duchessa si affievolì proprio nel bel mezzo della sua parola preferita, morale, e il braccio sotto il suo prese a tremare. Alice alzò gli occhi e si vide davanti la regina, braccia conserte, con un'espressione da finimondo. «Che splendida giornata, maestà!» cominciò la duchessa a voce bassa e sottomessa. «Non te lo ripeto più!» urlò la regina battendo il piede rabbiosa. «O via tu! O via la tua testa! Hai un batter d'occhio per decidere!» La duchessa scelse via tu e si eclissò. «Dai, che andiamo avanti col match!» disse la regina ad Alice. E Alice era così terrorizzata che non riuscì a spiccicar parola, ma la seguì lentamente verso il campo di croquet. Gli ospiti avevano approfittato dell'assenza della regina per riposarsi all'ombra, ma appena la videro, tornarono di corsa a giocare, mentre la regina faceva notare en passant che un ritardo di un solo men che non si dica sarebbe costato un bel po' di tagli da darci. Per tutto il tempo della partita, la regina non smise un istante di baccagliare con tutti e di strillare «Baia! Un bel zacca quello lì!» o anche «Baia! Un bel zacca quella là!» all'indirizzo di questo e quel giocatore. I condannati a morte venivano presi in custodia dai soldati, i quali, per far ciò, dovevano piantar lì di fare gli archetti, cosicché nel giro di una mezz'ora non c'era più nemmeno un archetto e tutti i giocatori, tranne il re, la regina e Alice, erano sotto sorveglianza in attesa di essere decapitati. Allora la regina, ormai a corto di fiato, abbandonò il campo. «Non hai ancora visto la tartaruga d'Egitto?» chiese ad Alice. «No», disse lei, «non so neanche cosa sia una tartaruga d'Egitto». «È quella roba che ci fanno il brodo di tartaruga d'Egitto», disse la regina. «Mai vista né sentita», disse Alice. «E allora seguimi», disse la regina, «che ti racconterà la sua storia». The black and green scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and swore everywhere he didn't care. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up off and mice fell around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, his heart's not unkind, he doesn't mind. He stood in a field where barley grows. Mentre si allontanavano insieme, Alice sentì il re che a bassa voce diceva alla compagnia: «Tutti graziati in blocco!» «Ah, questa sì che è una bella notizia!» si disse Alice fra sé e sé, poiché quel fuoco di fila di «Boia! Un bel zac!» l'aveva depressa un bel po'. Di lì a poco si imbatterono in un grifone che se ne stava steso al sole a sonnecchiare. «Sveglia, pelandro!» disse la regina, e conduci questa giovane dama a vedere la tartaruga d'Egitto, che vuole ascoltare i suoi geroglifici. Io vi lascio, ho un paio di decapitazioni da sbrigare prima di pranzo. E se ne andò, lasciando Alice sola con il grifone. Ad Alice non piaceva affatto l'aspetto di quella creatura, ma pensò che tutto sommato era più al sicuro con lui che con quella sanguinaria di una regina, e rimase dov'era. Il grifone si mise a sedere stropicciandosi gli occhi, poi seguì la regina con lo sguardo finché non fu sparita, quindi ridacchiò. «Che cartolina!» disse più a se stesso che ad Alice. «E dov'è la cartolina?» disse Alice. «E lei no!» disse il grifone. «È tutto un paesaggio della sua immaginazione, mica decapitano mai nessuno, che credi? Seguimi!» «Tutti dicono seguimi da queste parti», pensò Alice mentre lo seguiva lemme lemme. «Non ho mai ricevuto tanti ordini in vita mia, mai!» Non avevano fatto molta strada quando in lontananza scorsero la tartaruga d'Egitto, seduta triste e sola sul cocuzzolo di una roccia, e più si avvicinavano più Alice poteva sentirla singhiozzare come se avesse il cuore spezzato. Ne provò una gran compassione. «Che dispiaceri ha?» chiese al grifone, e il grifone rispose più o meno con le stesse parole di prima. «Oh, è tutta una sua immaginazione, mica ha dispiaceri, che credi? Seguimi!» Così giunsero davanti alla tartaruga d'Egitto, che li guardò con i grandi occhi colmi di lacrime, ma non disse niente. «Questa giovane dama», disse il grifone, «è venuta ad ascoltare i tuoi geroglifici, pensa un po'». «Glieli racconterò», disse la Cleopatra col guscio in tono cavernoso. «Sedetevi voi due e non dite una parola finché non avrò finito». Così si sedettero e nessuno aprì bocca per alcuni minuti. Alice stava pensando: chissà come farà a finire se non comincia neanche, ma restava pazientemente in attesa. «Una volta», disse finalmente con un sospirone la tartaruga d'Egitto, «io ero una tartaruga vera». Queste parole furono seguite da un silenzio molto, molto lungo, interrotto solo di tanto in tanto da un'esclamazione tipo del grifone e dal continuo singhiozzare della tartaruga d'Egitto.

Sì, tu non ci crederai, ma noi andavamo a scuola in fondo al mare. Non ho detto che non ci credo, la interruppe Alice. E invece l'hai detto, ribatté la tartaruga d'Egitto. Ma statti zitta, aggiunse il grifone prima che Alice potesse di nuovo aprire bocca. Ricevemmo la migliore educazione, infatti andavamo a scuola tutti i giorni. Andavo a scuola anch'io tutti i giorni, disse Alice. Non vedo cosa ci sia da vantarsi tanto. Coi corsi extra? Chiese la tartaruga d'Egitto con voce preoccupata. Sì, disse Alice, studiavamo francese e musica. E bucato? Domandò la tartaruga d'Egitto. Ma fammi il piacere, disse Alice indignata. Ah, allora non era una scuola delle migliori, disse la tartaruga d'Egitto con tono di profondo sollievo. Nella nostra, invece, in calcio alla fattura della retta c'era scritto francese, musica e bucato. Extra. Chissà che te ne facevi del bucato, disse Alice, vivendo sott'acqua. Oh, purtroppo non potevo permettermelo, disse la tartaruga d'Egitto con un sospiro. Ho frequentato solo i corsi normali, che consistevano in... Oh, naturalmente, tanto per cominciare, a scansare le vocali e arricciare le consolanti, rispose la tartaruga d'Egitto, e poi le quattro operazioni dell'aritmetica, ambizione, soggezione, mortificazione e derisione. Mortificazione? Mi giunge nuova, si arrischiò a dire Alice. Cos'è? Il grifone alzò le zampe al cielo dalla sorpresa. Cosa? Mai sentito parlare di mortificazione? Esclamò. Saprai, spero, cosa significa vivificazione. Sì, disse Alice un po' dubbiosa, significa rendere una cosa più viva. Allora, continuò il grifone, se non sai che cosa significa mortificare, devi proprio essere una sempliciotta. Alice non ebbe il coraggio di approfondire la questione. Si rivolse alla tartaruga d'Egitto e disse, quali erano le altre materie? Beh, c'era la scoria, rispose la tartaruga d'Egitto, contando le materie sulle squame delle nocche. Scoria antica e moderna, con mareografia. La prof di disdegno era una vecchia anguilla che veniva su una volta alla settimana. Ci insegnava disdegno, frittura su tela e findus affresco alla mia maniera. Cos'era più o meno? Disse Alice. Ah beh, non lo so nemmeno io. Roba da brivido comunque. Neppure il grifone l'ha mai imparato. E chi aveva tempo? Disse il grifone. Ho fatto il classico io. E il mio maestro era un vecchio granchio con la barba. Io non ho mai preso lezioni da lui, disse la tartaruga con un sospiro. Insegnava amor greco e Latin lover, mi si dice. Esatto, esatto, disse il grifone sospirando a sua volta, e i due animali si nascosero la faccia fra le zampe. E quante ore avevate al giorno? Disse Alice, impaziente di cambiare argomento. Il primo giorno 10, disse la tartaruga d'Egitto. Il secondo 9 e così via. Che orario strano, esclamò Alice. Ma è per questo che sono chiamate ore distruzione, osservò il grifone, perché si autodistruggono. Questa qui Alice non l'aveva mai sentita e ci pensò sopra per un po' prima di fare la seguente osservazione. Allora l'undicesimo giorno era vacanza. Certo che lo era, disse la tartaruga d'Egitto. E il dodicesimo che facevate? Continuò Alice incuriosita. Basta parlare di scuola, tagliò corto il grifone. Dille qualcosa della ricreazione adesso. I'm not afraid.